Ale. Allora, manca un microfono per a Ale che è qua in contumacia. Tu non puoi, no, tu hai l'obbligo di firma, secondo me. Tu hai l'obbligo di firma. Ale. Il basso, dov'è il basso? Il batterista se n'è andato, no? Ale. Siamo qua perché non sapevamo dove andare. Oh, adesso facciamo il bis. Tanto richiesto. Nonostante non sia pescatore, tutti mi chiedono di passargli una canna. Noi stiamo per partire, però abbiamo i nostri tempi. Ciao, sono la corista e il bis non c'è. Quanto? Allora, stasera 5. Abbiamo deciso di devolvere al pubblico i soldi che prenderemo. Sì, sa. Ali. Andiamo bene. Ah. Allora! Andate a lavorare, andate. Quando poi troviamo lavoro anche noi, andiamo anche noi a lavorare. Però intanto... Allora, alla fine volevamo presentarlo come un concerto, ma era un'assemblea politica sulla percezione scatologica di ogni soggetto qua dentro, per capire un po' quando crepi, se sono solo vermi o anche larve di altri tipi. Cioè, per me sono solo vermi, per te ci sono anche larve di altro tipo? Solo fiori? Per te il fiore è una larva? Per me sì, per me, per te non so. Ale. Allora, il batterista è morto. Accordiamoci. Volevo solo ribadire che l'Homo sapiens non è duratura creatura. Vogliamo dire che l'Homo sapiens viene prima dell'Homo insapiens, che è l'involuzione in cui è entrato l'uomo adesso. Homo sapiens! Oppure... Il prossimo pezzo si chiama "Ma se l'uomo defecasse sulle piramidi sarebbe meglio". Abbiamo i nostri tempi, stiamo partendo, ma se si innervosite è peggio. Il nostro intento, visto che non abbiamo un nome, ci facciamo attendere per avere un nome. Figli dell'officina, figli della terra, già allora si avvicina della più giusta guerra, la guerra proletaria, guerra senza frontiere. Innalzeremo il vento, bandiere rosse e nere, avanti se arriverà. Un mondo di fratelli liberi dal lavoro, dai monti e dalle valli, giù scendiamo in fretta, con queste bande ai calli noi la faremo vendetta del popolo, gli arditi. Noi siamo i fiori più puri, fiori non appassiti dal letto dei tumori. Avanti siamo ribelli, ieri vendicator, un mondo di fratelli liberi da niente, bella e vendicatrice, perché chiuderà le porte a un'era più felice. Ai morti ci stringiamo e senza impallidire, per l'anarchia pugniamo, o vincere o morire. Avanti siamo ribelli, fieri vendicatori, un mondo di fratelli, liberi dal lavoro. Un mondo di fratelli, liberi dal lavoro. Allora, dedichiamo questo concerto a tutti quelli che autogestiscono spazi sociali, che li occupano, a chi occupa case, a chi libera spazi per la socialità gratuita e libera. Noi un mese fa siamo stati sgomberati da 70 poliziotti, carabinieri e vigili urbani a Modena, dopo 8 anni di autogestione. Ce l'hanno fatta, abbiamo resistito 9 ore. Però dedichiamo questo concerto non a noi, ma a tutti quelli che autogestiscono. Per fortuna. Viene omaggio. Viene omaggio. T'aspetta le genti, ti salutano i liberi cuori, dolce pace nei lavoratori. Viene splendi alla gloria del sol, squilli un inno di alate speranze, anche al verde che il frutto matura, alla bassa idea fioritura, in cui freme innocente a te. Disertate falangi di schiavi, dai dall'arte officine, via dai campi, su dalle marine, trema tregua l'eterno sol, innalziamo le mani callite, questo affascio di forze fecondo. Noi vogliamo redimere il mondo dai tiranni dell'occhio e Ah. questo secolo morente, sull'orizzonte cupo e desolato, che spunta l'alba minacciosamente. Già spunta l'alba minacciosamente, senti fatato. Ora lo diamo a fare di dolore, da mille e mille fatti scheletrite, e giù la corso scantore del tore, la dina di te. E giù la corso scantore del tore, sulla per nome della anarchia insorgeremo, sulla per nome bello d'anarchia insorgeremo, vedremo tutti i giorni gloria, tutte giallo belle nome una volta, non penseremo sulle barricate e piombo col piombo. Confesseremo sulle barricate, piombo col piombo. Saremo in un fulgor di gloria, chiudendo la venia dove la via. Lasciando tutta la nuova storia dell'anarchia. Lasciando tutta la nuova storia. Militare fa male, sono tristi. Noi facciamo pace ai sicuri dei poveri. Noi facciamo guerra ai signori della guerra. Non abbiamo divise né ordini né gerarchia. Abbiamo l'innamorata che ci aspetta e si chiama anarchia. Anarchia. Anarchia. Anarchia. Kids. Micio, dai monti di Sardegna e un vai. Paio di birre. Momenti di passione, giornate di dolore, ti scrivo. L'inno dei malfattori. L'unico commento possibile è Dio boia. Siamo degli anarchisti, ma siamo degli anarchisti, per bene ma fattori senza fretta sorgere o sorella venire. Vive voglia liberi, non voglia più servire. Con siamo figli e con l'amor concordi, insegnare a figli servi padroni corni. E poi ha pagato a noi lavoratori, e poi ha proclamato che siamo i lavoratori. L'amor richiede uniti gli offerti naturali e non domandarini nella ciconiugali. Noi dai supermercati storci gli amori e si accetturati ci chiamano malfattori senza fretta sorgere o soldella venire. Libero gli liberi, non voglio più servire. Siano con frodi città fuori e terre da giorni giusti ogni che c'entra le guerre. Noi è questo è vero, gridiamo tutti i cori che passano per zero, ci chiama malfattori. La scelta è lo stato in conta borghesia, potendo dal creato di libertà la via. Ma presto li verranno che papa re signori, questi l'anno vedranno. Qualcuno mi porta una birra, sarò su schiavo per 1,26 ore. Allora, I can get no satisfaction and a try. Ale. I can get no soddisfazione. Quando un gruppo è bravo, è bravo. Questo è un buzzer per tutti i luganesi. Addio Lugano bella, oh dolce terra pia, cacciati senza colpa gli anarchici van via. E vanno ci accusiamo in faccia la verità. banditi senza tregua. Andremo di terra in terra a predicar la pace ed a bandir la guerra. La pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressori. La pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressori. Nel mezzo del tuo governo di un popolo gagliardo, la tradizione offende. E tutta la leggenda del tuo guerriero te. E tutta la leggenda del tuo guerriero te. Addio cari compagni, amici luganesi, addio bianche di neve, montagne ticinesi, i cavalieri erranti son trascinati al nord, i cavalieri erranti son trascinati al nord. O profughi d'Italia, all'avventura si va senza rimpianti, che paura il nostro padre, il mondo intero, e la nostra legge la libertà, e un pensiero, ed un pensiero, il nostro padre il mondo intero, e la nostra legge la libertà, ed un pensiero, ribelgo di sta. Dovunque non sfruttano, si ribelli. Noi troveremo schiere di fratelli, nostro padre al mondo intero. E la libertà ed un pensiero, ed un pensiero, nostro padre al mondo intero. E nostra legge la libertà ed un pensiero, ribelli corci sta. Per un'idea lasciamo i nostri cari, nostra patria, il mondo intero, e nostra legge la libertà, ed un pensiero, nostra patria, il mondo intero, e nostra legge la libertà, ed un pensiero, orribile corcista. Ma tornere all'Italia, i tuoi proscritti da chitarra fa i diritti di nostro padre al mondo intero, e nostra legge la libertà, ed un pensiero, ed un pensiero, nostro padre al mondo intero, e nostra legge la libertà, ed un pensiero, prima le corti sta. Prossimo pezzo, lo stage diving deve essere imperante. Voglio più stage diving. Se la birra serve avere più stage diving ci sta, se no esci dopo e... Ale. Oh, allora più per il pubblico, mica come Prodi che fa meno alcol per gli automobilisti. Noi siamo per più automobili per gli alcolisti, 2-3 a testa. L'amore tuo fanciulla, al amor io preferia, la mia, la madre mia, ma perché tenerti in braccio ancora. Il mio cuore a morte sfida i potenti della terra. Il mio braccio muove guerra alterato all'oppressore. Se tu vuoi faccio la gara, noi lassù combatteremo e nel dì che vinceremo, braccio e cor ti donerò. E nel dì che vinceremo, braccio e cor ti donerò. E nel dì che vinceremo, braccio e cor ti donerò. Non lo sappiamo. Allora, chi è interessato, sabato 20 a Modena ci sarà un corteo nazionale in solidarietà libera per lo sgombero che ha subito. In più faremo una tre giorni contro la filosofia del manganello e degli sgomberi. Ma una filosofia che tanti sindaci, tanti comuni ormai stanno applicando come se fosse una cosa assodata. E noi dobbiamo combattere contro questa cosa, dobbiamo andare in mezzo alla gente e dirgli che noi siamo parte della gente e che le istituzioni sono i nostri nemici. Yeah. Ma cosa ha detto Margherito? Non sono quattro mura, ma è tutto quello che c'era dentro, che poi l'ha lasciato lì. Adesso facciamo l'internazionale, ma non come ce l'ha fatta conoscere il Partito Comunista. L'internazionale esce dalla Comune di Parigi, l'ha scritta un anarchico e in Italia è stata cambiata la versione, è stata scritta dal Partito Comunista. Viva Gaetano Brescia! Avanti dannati ed oppressi, nel cuore tuona la ragione. Diseguaglianza e sfruttamento, col passato cancelliamo. L'anarchia sarà emancipazione, dallo stato schiavitù. Al vento bandiere rosso-nere, fratellanza e nulla più. Tutti uniti lottiamo, il nostro fine sarà la rivoluzione sociale per l'intera umanità. Tutti uniti lottiamo, il nostro fine sarà la rivoluzione sociale per l'intera umanità. Mai più né Salvatore Supremi, né Dio, né re, né capo alcuno. La società organizzata ed il libero pensiero. Guarda a noi e guarda ai tiranni, fuoco, piombo e generale. E siamo noi, saremo tutto nell'internazionale. Tutti uniti lottiamo, il nostro fine sarà la rivoluzione sociale dell'intera umanità. Noi lottiamo, il nostro fine sarà la rivoluzione sociale dell'intera umanità. Tutti uniti lottiamo, nostro fine sarà la rivoluzione sociale per l'intera umanità. Tutti uniti lottiamo, il nostro fine sarà la rivoluzione sociale per l'intera umanità. La rivoluzione sociale per l'intera umanità. Siamo di moda. Ale ale. Per ricordare da dove veniamo, che siamo anche abbastanza vicini. Proprio a ovest. Ricordiamo un po' a tutti che siamo di Modena. Adesso ricordo quel bastardo posto. Lo diceva Guccini. Ricordo. Adesso ricordo nel centro nord. Mi ricordo solo le cose. Mi ricordo corteo contro i CPT, sono stati di esse a Modena, sono di Modena, sono di Modena. Modena è la città con l'accademia militare dove si insegnano ai giovani le strategie per ammazzare. Modena è la città celebrata ai motori, velocemente si muore per strada e gli altri nascono i tumori. Yeah! Adesso ricordo quel bastardo posto, lo dicevo Guccini e concordo. Grigio e vuoto il centro, ormai lo spettro apparentemente pulito ma vuoto. Sono di Modena, sono di Modena, sono di Modena. Noi abbiamo già detto che siamo di Modena, che è una città di merda. Modena è la città, Modena è la città dove grande partita la parla e se lo scrive l'unità. l'elefante svolazza, vuote nella città, città. Per benessere del lavoro, dove hai la libertà, solo stabilisce loro. Adesso ricordo, l'ho letto sui libri, c'è il succedente miracolo tra i primi. Un'altra grande forza spiegava le sue ali in queste terre primi anni del secolo internazionale. Modena, sono di Modena, sono di Modena. Modena è la città che deve tornare com'era quando la libertà era la sua bandiera. Modena è la città che deve tornare com'era sul municipio, la bandiera rossonera. Modena è la città che deve tornare com'era quando il partito ancora non c'era. Modena è la città che deve tornare com'era in ogni luogo, la bandiera rossonera. Giusto per chiarire che siamo di Modena. Anch'io. E che puntini, puntini, puntini. Allora, il concerto è finito. Andate in pace. Più o meno. No. Allora, facciamo e quando muoio io. Riusciamo a fare cammino. Allora, se non ci ricordiamo bene il testo non vuol dire che non lo sappiamo, ma allora, solamente che partecipiamo emotivamente al pezzo. Ok? Io faccio lo showman, mi spoglio durante il pezzo. Ale ale, ale ale. Go go go, ale ale, ale ale. A chi? A te. Assorbo. Era da una vita che te lo volevo dire. Ah. E quando muoio io non voglio preti, non voglio preti. È più veloce, ragazzi, avete scazzato tutto. Avete tempo. Scazzato tutto. Rifacciamo se il concerto. Sbagliato. Rifacciamo dall'inizio. Ci avete fatto sbagliare. Rifacciamo il concerto. Ora facciamo Requiem, va. Pochi lo sanno, ma questo pezzo l'ho scritto io. Si chiama E quando muori tu. Allora! E quando muoio io non voglio preti, non voglio preti e frati, né pater nostri, non voglio preti e frati, né pater nostri, ma voglio la bandiera degli anarchisti. La rigira, la rigira, la rigira, e viva gli anarchisti, abbasso i gesuiti. E la rigira, la rigira, la rigira, la rigira sempre arditi, e viva gli anarchisti, abbasso i gesuiti. La Francia Giordano Bruno. Francia già scacciato i preti e i frati, le monache e i conventi ed i prelati, le monache e i conventi ed i prelati, perché erano tutte spie e in ciò pagati. E la rigira, la rigira, la rigira, la rigira è mai la spaglia, e viva gli anarchisti, abbasso la serraglia. La rigira, la rigira, la rigira, la rigira è mai la spaglia, e viva gli anarchisti, abbasso la serraglia. E se Giordano Bruno fosse campato, non esisterebbe più. ma anche il papato non esisterebbe più, ma anche il papato e l'anarchismo avrebbe già trionfato. E la regina, la regina, la regina, la regina feritola avanti gli artisti e chi ci crede ancora. La regina, la regina, la regina feritola e viva gli anarchisti e viva la corona. E quando muoio io non voglio preti, non voglio preti e frati, né pater nostri, non voglio preti e frati, né pater nostri, alla mia varella. La regina di Fortuna, evviva Bacuni, ma la testa è Giordano Bruno. La regina, la regina, la regina, evviva Bacuni, ma la testa è Giordano Bruno. Quando muoio io non voglio preti e frati né pater nostri, ma voglio bimbe belle alla mia barella, ci voglio l'anarchista della sua bella. E la regina, regina, regina, l'argina non la sbaglia, e viva gli anarchisti a basso la sbaglia. Regina, regina, evviva Bacuni, ma la testa è la stella! Dimmi, bel giovane, ai, ai, ai, ai. Onesto e biondo, dimmi la patria tua, cuore, tuo cuore. Adoro il popolo, la mia patria e il mondo, il pensier libero è la mia fede. Case di chi l'abita e un vile chi lo ignora, il tempo è dei filosofi, il tempo è dei filosofi. Case di chi l'abita, un vile chi lo ignora, il tempo è dei filosofi, la terra di chi la lavora. Addio mia bella casetta di Dio, madre amatissima e genitor, e genitor. Io pugno intrepido per la comune, come Leonida saprò morir, saprò morir. Anche prima la casa di chi l'abita è un vile chi lo ignora, il tempo è dei filosofi, il tempo è dei filosofi. La casa di chi l'abita è un vile chi lo ignora, il tempo è dei filosofi, la terra di chi la lavora. La casa di chi l'abita è un vile chi lo ignora, il tempo è dei filosofi, il tempo è dei filosofi. La casa di chi l'abita è un vile chi lo ignora, che poi le filosofi, la terra di chi la lavora. Adesso ci metteremo in un brano che non abbiamo scritto noi per caso, per puro caso. Sono arrivati 10 secondi prima e impressioni di settembre. Esenzioni di settembre. Noi avevamo avuto impressione che lo sgombero fosse a settembre, ma è arrivato ad agosto. Però e ci siamo sbagliati. Quando guardavamo dal tetto di Libera i campi, il verde, noi pensavamo a un certo punto di vedere tutto il blu dei poliziotti, dei carabinieri, e abbiamo pensato che quella fosse merda, merda. Quante gocce di rugiada intorno a me! Quante gocce di rugiada intorno a me! Cerco il sole ma non c'è! Dorme ancora la campagna? Forse no! Ma sveglia, mi guarda, non so! Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde! Tutto intorno ancor più in là, sembra quasi un mare d'erba. E leggero il mio pensiero voleva, ho quasi paura che sia merda. Muove il collo verso il prato, resta fermo come me. Faccio un passo, lui mi vede già fuggito, respiro la nebbia, penso a te. No! No! Cosa sono? Adesso non lo so. Sono un uomo, sono un uomo senza spazio. No! Cos' sono? Adesso non lo so. Sono un uomo senza spazio. E intanto il sole tra la nebbia filtra già. Un giorno come sempre sarà. Padrone di niente. Vai. Ali, ali. Ali, Ali. Vai, Micio. Questa canzone l'abbiamo scritta per la Sanremo, per Sanremo Anarchica. Micio, vai. Aia. Quando vieni al mondo non sai perché, apri gli occhi e trovi quello che c'è. Nessuno t'ha chiesto se va bene così, tu impara subito a non dire di sì. E se c'è chi comanda e c'è sempre qualcuno, padroni di niente e servi di nessuno. E se c'è chi comanda e c'è sempre qualcuno, padroni di niente e servi di nessuno. Padroni di niente e servi di nessuno, la libertà di tutti e l'eguaglianza di ciascuno. Padroni niente e servi di nessuno, la libertà di tutti e l'eguaglianza di ciascuno. Padroni niente e servi di nessuno, la libertà di tutti e l'eguaglianza di ciascuno. Padroni niente e servi di nessuno, la libertà di tutti e l'eguaglianza di ciascuno. E se qualcuno ha tradito e ha preso il potere, distruggiamo lo Stato e mettiamolo a tacere. E se qualcuno ha tradito e vuole l'autorità, distruggiamo di tutto autogestione e volontà. Padroni di niente e servi di nessuno, la libertà di tutti e l'eguaglianza di ciascuno. Padroni di niente e servi di nessuno, la libertà di tutti e l'eguaglianza di ciascuno. Perché apri gli occhi e trovi quello che c'è. Nessuno t'ha chiesto se va bene così, tu impara subito a non dire di sì. E se c'è chi comanda e c'è sempre qualcuno, padroni di niente e servi di nessuno. E se c'è chi comanda e c'è sempre qualcuno, padroni di niente e servi di nessuno. Padroni di niente e servi di nessuno, la libertà di tutti e l'eguaglianza di ciascuno. Padroni di niente e servi di nessuno, la libertà di tutti e l'eguaglianza di ciascuno. Padroni di niente e servi di nessuno, la libertà di tutti e l'eguaglianza di ciascuno. Padroni di niente e servi di nessuno, la libertà di tutti e l'eguaglianza di ciascuno. Padroni di niente e padroni di niente. We'll be right back.

la macchina a vapore. Oh yeah! E che ci giunga il giorno ancora la notizia di una locomotiva come una cosa viva, lanciata bomba contro l'ingiustizia, lanciata bomba contro l'ingiustizia, lanciata bomba contro l'ingiustizia! Che riscalda la mia mente, con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa male, che ci porta sulle strade della gente che sa male. E mia vita è un contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia quel che penso della vita. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa male. Ringraziamo l'XM ad averci invitato qua. Solidarietà e vicinanza a tutti quelli che autogestiscono ed occupano. La band è solidale. Alla batteria il batterista. Alla chitarra il chitarrista. Al basso il bassista. Al sax il saxista. Alle voci il vocista. Ale ale. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente, con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare, che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Il mio mitra è un contrabbasso che ti spara sulla faccia, ti spara sulla faccia ciò che penso della vita. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Allora, è finita la prima parte del concerto. Fra un po' inizia, e poi torniamo. Inizia la seconda parte, che si chiama Ale Ale. Ale Ale. Frigobaldo. Allora, se volete fare figli dell'officina per chiudere e dedicare a tutti. No, io non la canto. Allora, adesso facciamo fetta della Paolino Paperino Band, che è un gruppo che a noi piace molto e che conosciamo, che è un po' come dire: se vai a votare sei un minchione, eh? Ale ale. Fetta di salame di prosciutto. Fetta adesso. Wow! di salame di prosciutto. Tu. Tu che leggi sempre solo i giornali dello sport e non sai nemmeno che Aldo Moro è morto. Tu che credi che la scheda elettorale sia come la schedina e voti col sistema. Invece di mettere una croce sulla scheda vedi una bellissima, simpatica, meravigliosa fetta di salame o di prosciutto. Fetta con l'ingredo e con lo frutto. Fetti di mortadella o di pancetta. Fetta l'euro per tu vuoti in fetta. Non in la scheda la tua fetta. No. Sei andato a votare, non c'era la matita, che cacco l'hai messo con le dita. Tu dovevi votare, hai visto i tuoi amici e sei andato a fare un giro in bici. Tu ti sei per le cartacce in mezzo al bando, voti verde perché lì sta zero zero euro. Tu fai dentro la cabina e con la tua manina ti fai una sega mentre voti in cinturina. Bellissima, simpatica, meravigliosa fetta di salame di prosciutto con il pezzo con lo succo. Fetta al portatello di pancetta all'europeo con di fetta. Poni nella scheda la tua fetta. Sempre a PDPS e PC. Ti vedi la mattina, non sai che cazzo fare. Ti metti dal partito per poterli camminare. Sei ripreso e sei nato a Sanremo. Volevi votare e ti ha detto fermo e tremo. Oh, tremo chi? A votare si va a casa. Se di mettere una croce sulla scheda metti una bellissima, simpatica, meravigliosa festa di salame e di prosciutto con il pezzo con lo strutto. Vedi il mortadello di pancetta per il totale europeo con il pezzo. Prendiamo il nostro chiede che totale fetta un pacciucco ripugnante. So che non è bello, non è figo, è figo ma devo vedere il traffico. Poni nella scheda la tua fetta. Momenti di passione, giornate di dolore. Ti scrivo, cara mamma, domani c'è l'azione e la brigata nera. Noi la faremmo morire dai monti di Sardana, onde discenderemo. Allerta partigiani, del battaglion Lucetti. Il battaglion Lucetti, solidarietà un labbio. coraggio sempre avanti, la morte non la più. Coraggio sempre avanti, la morte non la più. Bom, bom, bom, bombardano i cannoni dai Monti Sardarelli. Allerta partigiani del battaglion Lucetti, il battaglion Lucetti, e sono libertari nulla più. Coraggio sempre avanti, la morte nulla più. Coraggio sempre avanti, la morte nulla più. Bombardano i cannoni e fischia la mitraglia, l'anarchica bandiera al grido di battaglia. Più forte sarà il grido che salirà lassù, vedere a Pietramori non scenderemo giù. Vedere a Pietramori non scenderemo giù. Vedere a Pietramori non scenderemo giù.